intorno alle 22 Balotelli è uscito dall'hotel ed è andato a mangiare una pizza con la fidanzata, cosa quasi impensabile per quanto riguarda le squadre italiane, cosa non dico normale, ma sinceramente non imbarazzante per quanto riguarda le squadre inglesi e il Manchester City in questo caso. Quindi la ricostruzione è stata abbastanza facile, la notizia l'abbiamo data, abbiamo anche visto che i quotidiani non hanno voluto rifare la prima, non hanno voluto, evidentemente non hanno avuto il tempo, il modo, o forse non hanno considerato la questione così importante. Questo da un lato ci ha un filino insospettito, ma dall'altro insomma, siamo andati avanti dando, come dire, documentando e citando la fonte, perché, certo, perché questo era vero. Noi sapevamo che la foto era vera, sapevamo che il sito era attendibile, vedevamo che su internet rimbalzava in maniera forte e l'abbiamo trattata, credo, anche in maniera decisamente corretta. Sì, ho sì. visto che stamattina è soprattutto sui siti che le foto rimbalzano e che, come è normale che sia, ripeto, una domanda che mi sono posto è, beh, allora non gioca, perché probabilmente uno che esce alle 22 fa pensare che Mancini gli abbia detto, guarda, tu domani vieni in tribuna e quindi vai serenamente. Questo sinceramente io non so oggi, perché non è possibile parlare con Mancini o con l'entourage del Manchester City, quindi non sappiamo se effettivamente ci sia stato questo. Sappiamo però che trattasi di una questione perfettamente a norma per quanto riguarda il codice comportamentale in casa Manchester City. Sì, quindi, niente scandalo.